Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Fabio Aru su pedale che Daniel Martin, Roman Bardet, Fabio Aru che spinge, le pendenze, il 20%, Fabio Aru che guadagna terreno, Bardet che prova a rimontare, andiamo Fabio Aru con Bardet Uran, ancora Aru, vai cavaliere! Nella vita bisogna provarci, io ho provato ad attaccare a 300-350 metri dall'arrivo, lo strappo era veramente duro, però ho pensato ad andare a tutta sino all'arrivo. Aru e Bardet insieme, che bel finale, 100 metri, Romain Bardet, Chris Froome perde 2 metri, Bardet che si lancia, Aru che va per il secondo posto. Sono buoni anche i secondi posti, 50 Bardet. Metri e Bardet la va a chiudere. Chris Froome in difficoltà negli ultimi metri, 10 negli ultimi metri, gialli, e maglia gialla, Fabio Aru. Vestire la maglia gialla è un'emozione indescrivibile, penso sia una delle cose, anzi sicuramente più belle per un ciclista. Ragazzi, quasi quasi mi spiace fare una settimana di ferie la prossima. E maglia gialla. Ascolta, allora, e lo diciamo, Bonucci è arrivato a casa Milan. E Bonucci è arrivato anche a casa lui in maglia gialla, ma poi ne parliamo dopo. Mi spiace fare una settimana di vacanza, ma mi ci costringono perché un'estate così divertente non me la ricordavo da tempo. Un colpo al giorno. Io intanto, per chi ci sta guardando sulla webcam, pagina Facebook di Tutti Convocati, l'avete sentito, è qui con me Giovanni Capuano. Guardate, gli passo idealmente il testimone per la prossima settimana. Ecco qua. Saremo sempre qui, lunedì, venerdì, 14:15:30. Torno perché non voglio perdermi niente di queste estati. Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia. Intanto... E il mitico Edoardo Lavezzari che va in vacanza. Pensavo andasse a casa Milan anche lui. Andrà a casa Milan, ma va in vacanza per un po'. Intanto per l'Istituto Luce. Poi so che parliamo di questa cosa del Tour de France che ci interessa, però. Allora, Leonardo Bonucci è appena arrivato a casa Milan, accolto dall'entusiasmo trionfale di centinaia di tifosi del Milan. Benissimo, allora 800 24 0024, juventini incazzati e milanisti in festa. Questo è il tema del giorno, oltre ovviamente al signor maglia gialla per Augusto Stagi. Buongiorno. Scusate. Lo sa Paolo Savoldelli. Paolo Savoldelli, Stagio è impazzito. Buongiorno a tutti. Ne ha anche ragione a impazzire in questo momento. Ciao Paolo. Ciao Paolino. Grande Paolo. Sì. Siamo tutti pazzi di gioia. Ma per Aru o per cosa? Ma perché è meraviglioso. Allora, Paolino, all'inizio del giro, nel cuore. Il falco ce l'abbiamo nel cuore tutti. Io anche lo adoro. Ci siamo conosciuti di persona, ma non ci vediamo da anni. A qualche edizione del Giro d'Italia. Allora, Stagia all'inizio di questo giro, molto depresso, mi diceva: speriamo che piova, se no magari bagniamo le strade. Se no ci rompiamo le palle questo Tour de France. Ma guardala, Paolo Savoldelli, cosa ha fatto Aru? Cosa farà Aru? Perché 6 secondi è chiaro, non sono nulla contro le monte, come dicono i francesi. Beh, diciamo che cosa farà non lo sappiamo, ma quello che sta facendo cosa è deve fare? Spettacolare. Cosa deve ha vinto fare? Una bella tappa, ha indossato una maglia gialla che comunque non è poco nella carriera di un atleta, ma soprattutto sta sbaragliando i propri rivali, perché comunque nelle due tappe più importanti ha dimostrato di essere più forte in salita. 6 secondi sono pochi, però è un Tour de France non disegnato sicuramente per Froome, una cronometro molto corta nel finale. Secondo me Aru ha delle grandi possibilità, adesso ha preso coraggio, la maglia gialla gli darà sicuramente forza e lui dovrà solo che attaccare per cercare di guadagnare un minuto e mezzo circa che a cronometro potrebbe perdere contro Froome. Esatto. D'altra parte, Pierre, allora Froome ha vinto le ultime 47 edizioni del Tour, ha una squadra terrificante. Quelli che riescono, e Aru è il più bravo, si attaccano al treno e poi quando è il momento lo piantano lì. Mi piace che si attaccano al treno, io spero che si attacchino proprio al treno alla fine di questo Tour, Carlo, sei bellissimo, oggi mi entusiasmi, sono carico a mille. Avevo bisogno di questa boccata d'ossigeno e Fabio ce la sta dando, è durissima. Io rimango dall'opinione che l'avete visto, lo state vedendo, il Team Sky è molto molto forte. Io confido però sull'ignoranza ciclistica del Team Sky, di chi è inammirata, della loro pochezza tecnica. Fabio che è molto più tecnico di me, Paolo che è molto più tecnico di me, potrà più o meno confermare, io mi assumo le mie responsabilità, però io ti dico anche che loro hanno lì un uomo che mi fa paura, maledettamente paura, che si chiama Mikel Landa, che pedala facile, ragazzi, non c'è da sottovalutare. Vabbè, ma sei un depresso cronico, Paolo Savoldelli, dimmi la tua, tira su l'umore, lo mandiamo, gli diamo qualcosa a Stagi, antidepressivo, tiragli sull'umore, Paolo. Paolino, sicuramente Landa non è stato da sottovalutare, ma quello che ha detto Piero Augusto è abbastanza giusto, lo condivido. Il Team Sky ha sempre vinto quando aveva il corridore più forte e la squadra più forte. Già 3 o 4 anni fa, quando Wiggins è arrivato secondo alla Vuelta di Spagna, Froome andava più forte di Wiggins, ma la squadra inglese ha sempre corso per Wiggins e poi hanno perso la Vuelta. E farà la stessa cosa anche quest'anno. E il problema del Team Sky cos'è? Che vincono e non sbagliano quando bisogna essere i più forti, come probabilmente lo sono come squadra in questo momento, ma quando succede qualcosa di anormale non sono capaci di gestirlo. Vedi la Vuelta di Spagna dell'anno scorso, quando ha attaccato Quintana e Contador e Froome ha perso la Vuelta di Spagna. Cosa ne pensi dell'ignoranza tecnica di cui parlava Stagi? Ma penso che loro sono molto bravi e molto ricchi a comprare corridori più forti, hanno una grandissima gestione, spendono tanto, sono seguiti bene, guardano il misuratore di potenza e salgono a certi watt e finché nessuno li riesce a superare dominano la corsa. Quando però c'è un corridore che sta a scattare e sta a fare la differenza, cominciano ad andare un pochino nel pallone, cosa che probabilmente sta succedendo. Io però credo che il Froome che stiamo vedendo non sia il miglior Froome e lo vedo ancora come favorito numero uno, ma Aru da questa maglia gialla sicuramente trarrà una grandissima energia. Che ne pensi, Giovanni? Quindi non è vero che se arriva troppo presto, perché Pier ieri ci aveva spiegato e noi ovviamente abbiamo preso nota da Scolaretti che la settimana è quella prossima e che ieri Aru doveva semplicemente restare lì, quindi non è vero che alle volte arriva troppo presto una maglia gialla? Ma allora, la maglia gialla logora la propria squadra, ma logora anche chi non ce l'ha, ovviamente. il favorito di questo Tour rimane comunque Froome, nonostante la maglia gialla ce l'ha Aru, comunque sarà lo stesso la sua squadra che dovrà intervenire nei momenti più difficili. Io ho già vissuto in passato esperienze del genere, quando Armstrong nel 2005 perse di proposito la maglia gialla e poi la Discovery di cui io facevo parte doveva sempre tirare nonostante lui non fosse in maglia gialla, e questo sarà quanto succederà anche al Team Sky. Sì, d'altra parte insomma ci sono le condizioni per rubare quel tempo che serve per arrivare alla cronometro in condizioni più tranquille. Anche se io ho l'impressione che con questi distacchi il Tour de France è come se non fosse iniziato dal punto di vista numerico. Poi è vero che ha raccontato tante cose, ad esempio mi piacerebbe capire da chi li ha visti pedalare, visto che comunque siamo alla fine quasi della seconda settimana, chi ha lasciato di più sul terreno. Ma allora sicuramente chi ha lasciato più sul terreno è Quintana, che ha pagato il Giro d'Italia, un Giro d'Italia dove ha speso molto febbricitante in alcune situazioni e è andato già fuori dai giochi. Contador ha dimostrato di non essere più il miglior contatore, quell'anno in più che ha deciso di fare quest'anno lo ha pagato perché aveva deciso di smettere lo scorso anno. Questo direi che, questi due direi che a questo punto sono i due sconfitti e vengono a mancare due corridori che comunque dovevano essere là davanti allo stadio. E tra gli altri due, chi è che ha lasciato più, chi è che ne ha di meno da qui alla fine? Tra Froome e Aru, secondo me è difficile da capire. Io, anche se spero vivamente in Aru perché dà più spettacolo di Froome, credo che il favorito rimanga comunque Froome. Sì, ma per carità, lasciamogli i panni di favorito, lasciamogli pure. Glieli lasciamo. Adesso, per il momento, chi ne ha di meno sembrerebbe Froome nei confronti di Aru. È quello che penso anch'io. Grazie, ragazzi. Grazie, Paolo Savoldelli, per Augusto Stasi. Ci sentiamo ogni giorno. Ciao. Andiamo sul. Beh, d'altra parte, si parlava di Quintana. Quintana è come a Pedrosa. Già che oggi è venerdì, abbiamo Racing Team dopo le 15, come Pedrosa. Un magnifico perdente nato. Traffico, e poi ci buttiamo tra le braccia dei tifosi della Juventus incazzati e di quelli del Milan. Analizzeremo degli strani fenomeni che stanno accadendo. Se vuoi, te li sintetizzo. L'abbiamo fatto anche su Twitter. Allora, tifosi della Juve che hanno scaricato alla velocità della luce Bonucci, che fino a ieri era un grande idolo, oggi è una specie di traditore. Poi ci sono quelli che cercano di convincerti che la Juve non si è indebolita. Ieri addirittura ho letto da qualche parte statistiche per cui l'anno scorso la Juve senza Bonucci ha vinto tutte le partite tranne una. E poi ci sono i tifosi del Milan che fino a ieri sportivamente odiavano Bonucci. Vabbè, e che oggi sono in centinaia, li stiamo vedendo aspettarlo. Come Meneghin sotto la sede del Milan. Allora, se con te lo adori, se no se avete risposte su questi tre fenomeni, 800 24 00 24. Io ho una mia idea certamente sbagliata e piena di fantasia, ve la dico dopo. Convocati. Tutti convocati. Non so come metterla, però era andata benissimo a Cagliari, oggi si è tornata qualche scintilla di troppo. L'abbiamo sentita e vista litigare in campo con Bonucci e poi Bonucci è partito negli spogliatoi a fine partita salutando una sola curva. Cos'è successo? Perché? Come mai Bonucci può permettersi risposte del genere e magari creare quello che poi diventa un caso inevitabilmente? Ma non è assolutamente un caso. Vi siete chiariti poi quando è finita la partita? Assolutamente, non c'è nessun problema, sono cose che succedono. Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Ma il caso è già stato chiuso quando, insieme alla società, insieme al presidente, perché poi prima ho parlato con sabato mattina ho parlato con Marotta, Paratici e Nedri, e poi sono stato a cena col presidente e tutti insieme abbiamo concordato una linea che mi sembrava normale, soprattutto anche nelle regole e nella disciplina che la Juventus ha sempre avuto. Può succedere che si veda una piccola crepa e uno si insinui, anche se lei ha appena rinnovato il contratto. È successo oppure no in queste due settimane? Ho cambiato numero da poco, quindi forse non ce l'hanno perché non è squillato. Non è squillato, va bene, quindi il futuro... Mi sa che era pronta questa risposta, Leo è questo, Leo è un ragazzo che magari può anche sbagliare, ma diciamo se lo fa inconsapevolmente, nel senso che la sua iniziativa è quasi sempre finalizzata al bene della squadra, no? Poi è talmente un generoso, è talmente uno positivo nel gruppo, è talmente uno trainante che con poco, con una mezza cenetta riesce... Mezza cena, sono il primo a pagare. Sì, riesce a rimettere la barca in pari. Saluto il dottor professor Gran Loop Mann, Tony Damascelli. Ciao Tony. Buongiorno a tutti. Giovanni Capone per i titoli alla compianto da Gianluca Fantozzi. No, senti Tony, c'è qui come Giovanni Capuano. C'è chi sostiene Allegri ha regolato i conti con Bonucci, avrebbe detto lui o io, e così sono stati regolati. Abbiamo ripercorso brevemente la travagliata storia finale di Bonucci alla Juventus. È così, io ho un'altra idea, tra poco te la dico. Allora, la Juventus non ne poteva più di Bonucci. Tutte le storie di mercato di questi ultimi due anni sono tutte balle. Io l'ho detto, l'ho scritto e lo ribadisco anche oggi. Le offerte del Chelsea, Conte non ha mai voluto più Bonucci. Il penultimo anno di Conte aveva chiesto di venderlo. Mm-hmm. Quindi storie. Va bene. Dopodiché i comportamenti di Bonucci e della sua compagna, della sua signora, sì, erano abbastanza bizzarri, però nulla si può fare per quel tipo di comportamento. Sì. Il giocatore ha incominciato ad avere dei desideri, dei capricci altrove e ha realizzato questo progetto. La Juventus al tempo stesso ha perso un giocatore, incassa dei buoni soldi che per un difensore trentenne mi sembrano molto pesanti. Sono d'accordo. Leggo che Bonucci potrebbe essere il capitano del Milan. Mi chiedo in base a quali, quale possa essere il criterio. Mi auguro il criterio è che ci sono 11 giocatori nuovi praticamente. Quindi come? Ci sono praticamente 11 giocatori nuovi e io su questa scelta concordo. Che il portiere non è nuovo. Sì. Il portiere non è nuovo, però per varie storie non mi sembra il caso. Comunque, comunque è mia idea. Credo che ho detto. Va bene. Beh, insomma, Tony, perdonami, non mi sembra che Donnarumma nell'ultimo mese e mezzo abbia creato meno casini al Milan di quello che può capitare. Adesso facendo un ragionamento così. Il capitano di una squadra dovrebbe essere quello che rappresenta quella squadra. E quindi in questo momento la squadra del Milan era rappresentata da Leonardo Bonucci, punto. Gioco forza. Però Tony, posso chiederti cosa è cambiato allora tra l'anno scorso e quest'anno? Cioè, posto che la Juve, non è vero che si rinforza. L'anno scorso aveva tentato di venderlo, ma nessuno lo voleva. Però l'anno scorso la Juve addirittura gli ha dato il rinnovo, gli ha aumentato lo stipendio. Rinnovare il giocatore dovreste averlo capito, che significa? Significa solo blindarlo, quindi blindarlo, sì. Come blindarlo? Venderlo avere meglio. Una quotazione poi giusta. Certo. Se non rinnovi, poi ti ritrovi con i casi Keita o casi analoghi. Quindi, giocatori che se ne vanno quando vogliono loro. Sì, questo è chiaro. Volevo chiederti, quindi secondo te i tifosi della Juventus non devono essere assolutamente preoccupati per la cessione di Bonucci? Assolutamente incazzati, devono stare tranquilli. No, i tifosi si devono arrabbiare, fanno quello che vogliono i tifosi. Sì. Chi deve essere preoccupato o non preoccupato è l'allenatore. Cosa facciamo? Il mercato in base a quello che vogliono i tifosi? Ma per carità di Dio, mai nella vita. Così, no, ma semplicemente per chiedere. Dai tempi di Lentini, di Giuseppe Signori, sì, con le città devastate dagli hooligan. Ma per carità, i tifosi fanno il mercato. Carità, i tifosi non possono mettere becco, e questo l'abbiamo detto tutte le volte che è successo dal caso Stankovic in poi. Guai se orchestrano il loro mercato. Voglio chiederti ancora una cosa. No, però scusa, i tifosi fanno i tifosi. Però decide. Che passi, come in parte viene cercato di fare in queste ore, che la Juve senza Bonucci oggi è più forte, che la Juve senza Daniel Alves oggi è più forte, secondo benissimo, me è una riflessione che si può fare. Anche in queste ore che la Juventus si sta sbrecolando. No, questo è eccessivo. Allora bisogna che qualcuno si dia una regolata. Però un altro al posto di Bonucci serve o no? Perché insomma gira anche la voce che possono restare fermi così. Ma non può essere Caldara, che magari è fortissimo, però è un ragazzino. Vi posso dire che lo prenderanno e non è Manolas. E non è De Vrij? Vi posso dire che non è Manolas e lo prenderanno calma. De Vrij secondo me è un gran giocatore. Un'ultima cosa. Io ho la sensazione, ce l'ha anche qualche ascoltatore, ora sono molto fantasioso, se collego il nome di Bonucci a quello di Donnarumma sbaglio? Per quanto riguarda gli intrecci, la liaison tra Milan e Juventus. Chiedi a me? Sì. Non lo so, non posso saperlo, non mi risulta. Non ti risulta, ma quello che non risulta a me, non è detto che poi non accada. Mi sembra un bel romanzetto. Sì. Legare Bonucci a. Sì. Il problema è che il Milan il Milan ha chiesto questo giocatore dopo che questo giocatore ha pensato di andare all'Inter, il suo procuratore per essere più precisi, e la trattativa all'inizio è stata difficile perché la Juventus ha detto 40 o niente. E alla fine si vede che le parti si sono trovate e anche il calciatore è stato protetto con il suo contratto. Adesso è felice e soddisfatto perché va in un grande club che si sta ricostruendo, si sta costruendo bene, e va in un grande club e addirittura diventa il capitano di questa, di questo club. Un capitano, dopo che capitani di quelle squadre, di quella squadra sappiamo chi sono stati, grandi difensori, e quindi tocca a lui ricevere questa eredità, lo potrà fare. Io ho sempre stimato Bonucci un buon giocatore, non l'ho mai stimato un grande difensore, un grande giocatore, il migliore stopper, come ho letto e ascoltato in queste ore, ma è un discorso che io porto avanti da 5 anni, potrei dire dai tempi del Bari, quando giocavo ricordo. Essendo io un barese, conoscevo bene l'articolo in questione. Ma secondo te valeva più o meno di 40 milioni? Ma molto meno, ma meno, il problema non è Bonucci. Meno, cioè su un mercato dove c'è Stone che va via a 55, ma Bonucci valeva più questo, o meno. Ma il problema è proprio questo, che il mercato sta impazzendo. Tu hai chiesto a me no, quanto ma infatti, può valere. Ma infatti Biglia quei soldi me, è una vale cosa. Scusa Tony, Biglia che è il giocatore, è un giocatore chiave, come vuoi. È un giocatore chiave, il primo che serviva. Bergoglio, Bergoglio. No, ma ascolta. Andiamo con Biglia. No, giusto una battuta. A quelle cifre è chiaro che è un'operazione antieconomica. Se poi mi viene a dire, ne abbiamo discusso prima di Giovanni Capuano off records, l'idraulica Ferragosto ti costa 500 euro, normalmente 50, va bene. Però è un'operazione antieconomica dal punto di vista... Sì, ma quella è l'emergenza. Appunto, l'idraulico Ferragosto è l'emergenza. Esatto, e Biglia in questo Milano è l'emergenza. Ormai l'emergenza quotidiana. Douglas costa 40 milioni? Siamo fuori dal mondo. Ma sono d'accordo. Quindi 40 milioni per un difensore di 30 anni, secondo me, sono troppi. Sì, però ma in valore assoluto. Come? No, in valore assoluto. Poi c'è anche chi ne ha pagati 45 per l'articolo ECEA, voglio dire. Tony, sì, grazie, certo. Sono di corsa. Grazie, è sempre un piacere. Ciao Stefano da Fermo e poi ci vediamo per la borsa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Con Dica. Tutto il rispetto che ho per lei, caro Genta, lei forse è meglio che faccia ammenda di tutti i discorsi diciamo sul Milan che ha fatto nei tempi non sospetti. Io faccio ammenda? Ed è che? Lei ha sempre considerato i cugini poveri dell'Inter e i cinesi che sono venuti ad acquistare il Milan. Con pardon della Damas e dello Sombres, questi del Milan non sapevo chi fossero. Sì, se infatti gli avete chiesto anche i curricula. Io so chi sono. Io so Italia avversare 750 milioni di euro. Mi scusi, io so chi è Suning, non sapevo chi fossero questi, non lo so ancora adesso. Mettono i soldi e sta benissimo, ma non si sa esattamente chi siano. Poi ai tifosi non deve fregare niente, arrivano i giocatori benissimo, vengono pagati tanto benissimo, 167 milioni fin qui. Lorenzo da Udine, buongiorno. Sì, ciao ragazzi. Dimmi. Beh, comunque Bergoglio è bella, Bergoglio è bellissima. No, però è vero, allora, noi dobbiamo italianizzare questi cognomi perché sennò ci perdiamo. Facciamo i fighi, ma ci perdiamo. No, a me piace Biglia. Io dico Biglia, fate quello che volete. Dimmi. Bergoglio, va bene. Io sono juventino, premetto, 33 dispiaciuto, 66 contento del passaggio. E uno chi se ne frega, c'ho altri problemi nella vita. Grande Lorenzo, grazie. Ciao Borsa, poi leggiamo una marea di messaggi che stanno arrivando, dai. Immagino, anche di telefonate. A dopo. Ad avere i soldi di Inzaghi. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Tutti convocati. Ce l'abbiamo noi. praticamente in diretta, questo coro, Giovanni Capuano. Sì, sì, lo stanno aspettando a casa qua, mia. Se adesso apriamo le finestre, se però, sì, se siamo a 500 metri da casa infatti, Milan. Li state sentendo dalle finestre di Radio 24. Allora, dai, ti leggo qualche messaggio che è arrivato sulla pagina come tu Facebook. Pensai, è il momento del pueblo. Giuseppe e Mario sono i prossimi in linea. Allora, tra l'altro, avvisiamo che si sente perché all'inizio c'è stato un problema audio, ma lo diciamo. Andate sulle nostre pagine, potete vedere e anche sentire la trasmissione. Allora, da dove arrivano tutti questi soldi del Milan? Alberto Benedetti scrive: arrivano, l'abbiamo capito, dal prestito di Elliott e lì dovranno tornare, ma per il momento i soldi ci sono e quindi possiamo anche stupirci, ma questo è. Poi Astelia: sono un tifoso del Milan contentissimo, ma se non andassimo in Champions il prossimo anno porteremo libri in tribunale. Come fai a non andare in Champions? La risposta è no, però evidentemente Fassone sta facendo una scommessa ad altissimo rischio. Beh, Angelo non, che non dice, così alto, Gio, non così alto, non, no, così, non, alto, non così alto perché sta facendo una squadra non da libri in tribunale, però sta facendo comunque, allora, sta facendo 3 anni di campagna, allora, acquisti in un'estate. L'anno scorso con 2 posti in Champions era un all-in, ok? L'Inter l'ha giocato e l'ha perso. Quest'anno con 4 posti in Champions League, secondo me, sì, costruire questa squadra non è posto che uno dei 5 sta fuori. Benissimo. Perché uno fra Roma, Inter, Milan, Napoli, Juve, mettiamo dentro anche Napoli e Juve, starà fuori. Poi Angelo che dice: evidentemente lo spogliatoio della Juve non era così bello come dicevano, evidentemente no, ma qualcosa si era capito. E poi c'è chi dice, insomma, i juventini l'hanno presa troppo male. Oggi Massimo dice: Bonucci ieri era un simbolo della Juve, oggi che cos'è? Oggi diventerà un simbolo del Milan, cioè può piacere o non piacere, ma oggi diventerà un simbolo del Milan. Non vedo il problema. E poi, insomma, c'è chi ci ricorda i tanti che raccontavano che i cinesi non avevano soldi. Guardate però che farsi delle domande non significa gettare palta su un progetto che non si capiva e oggi comincia a delinearsi. Ragazzi, io non, prima l'ascoltatore mi ha detto che devo fare ammenda, no, non faccio ammenda perché quando sono arrivati questi io non sapevo chi fossero, e se voi lo sapevate, alzate il ditino, non so chi sia in grado di alzarlo. Allora, non ho mai criticato i 30 milioni per Romagnoli, caro ascoltatore che mi scrivi un WhatsApp. Che poi erano 25, semmai i 20 per Bertolacci, e non è che avessi tutti torti. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io sono un tifoso di Juventino che sta seguendo le vicende del mercato. Di mercato. Ecco, la mia considerazione è questa. Bonucci ha fatto bene ad andare al Milan, se lo pagano sui soldi sui quali sono stati scritti sui giornali. Noi tifosi juventini non faremo sicuramente come i napoletani, che ci tracceremo le veste. Ma no. Morto un papa, se ne fa un altro. Ma sicuro. Sicuro. Ma non mi sembra proprio il caso. Comunque anche Tony Damascelli, che è ben informato, ha detto che Juventus un altro lo prenderà, ma comunque non sì, vedo problemi. Poi vediamo, ripeto, poi un altro lo prenderà, però è inutile che ci raccontiamo che Bonucci non fosse importante per la Juventus. Cioè adesso Bonucci va via e Bonucci improvvisamente, ripeto, c'è anche chi ha scritto che la Juve in fondo l'anno scorso ha vinto tutte le partite tranne una quando non giocava Bonucci. Cioè Bonucci era l'anello di congiunzione tra il passato, il presente e il futuro, perché poi Barzagli, Chiellini, Buffon vanno in pensione prima di Bonucci. Ma ce ne sono altri in lista d'attesa. Sì, ce ne sono altri in lista d'attesa, ma il peso dell'esperienza, il peso della leadership, ammesso che ce l'avesse Bonucci, dentro uno spogliatoio non lo costruisci col talento di un ventenne. Ci vogliono anni. Bonucci era quell'anello lì in mezzo, quindi la Juve l'ha perso. Sicuramente avrà fatto i suoi calcoli e comprerà uno fortissimo, ma anche arrivasse un centrale difensivo straniero fortissimo, non facciamo guarda un nome, che il nome che hai fatto prima non De Vrij, sì, non avrà il peso dentro lo spogliatoio che aveva Bonucci. Va bene. Ugo Conti, buongiorno. Buongiorno a voi, come va? Guarda che sono sotto di voi e vi vedo che vi agitate. Perché non sali? No, perché sto andando a fare la spesa, quindi Ma tu però lui, l'altra volta sta andando a fare la spesa, no, come tutti i milanisti, sta andando a fare la spesa. Ugo, tu sai perfettamente dove siamo, ok? Sì. Mi hai promesso che un giorno venivi a trovarmi e allora vengo, prometto che però io non sono invadente, spero, dovete invitarmi. Spero, prometto, Ugo, vieni quel giorno. Spero, prometto, giuro, non ammettere un infinito futuro, diciamo. Come va? Molto bene, tu? Stai andando a casa Milan? Sei a casa Milan a cantare? No. Ce l'abbiamo noi. Siamo talmente vicini. Una volta quando ero in via Turati ci andavo spesso. Adesso non sono mai entrato a casa Milan abitando a 1 chilometro. Sì, però sarei contento. Cioè, Milan sta facendo una grandissima squadra. cosa volete sapere di quello che sta succedendo? No, voglio il tuo sentimento. Voglio sentire da milanista cosa ne pensi. Io sono abbastanza meravigliato di tutto questo, tutti i soldi che stanno spendendo. Quando una società spende così tanto, vuol dire che poi è destinata a vincere. Questo è sempre. E poi devo dire che la cosa di Bonucci mi fa molto piacere, perché è uno che sicuramente può, in questa squadra, in questi ultimi anni è mancato qualcuno. È mancata la leadership, Baresi, è mancato Gattuso, gente che stesse lì è chiaro. Capire come ci si comporta. L'abbiamo detto mille volte. Ti faccio quattro nomi da tifoso del Milan: Donnarumma, Romagnoli, Biglia e Bonucci. A chi daresti la fascia da capitano? Bonucci tutta la vita. Due sono già al Milan, due arrivano quest'anno e però hanno l'esperienza per farlo. Bonucci, tu a chi la dai? Ma io Bonucci non mi dispiace. Ma certo, è la scelta corretta. C'è uno che arriva con quello che ha vinto, con quello che ha guadagnato. Se viene qua è perché vuole divertirsi qua, perché evidentemente gli piace l'idea di venire a giocare in questa società. Donnarumma per lei. Lascia stare. Dobbiamo toccare questo tasto. No, ma poi scusami, Ugo, è una squadra senza passato. Il fratello di Donnarumma. Sì, è quello che ha vinto Superenalotto. Sì, ma quella roba lì mi ha fatto incazzare. Sì, no, mi ha fatto schifo. A me ha fatto schifo, l'ho detto pubblicamente. Secondo me è una cosa vergognosa. Ma comunque va bene, contenti loro, contenti tutti. Io voto comunque come capitano Bonucci, perché comunque prima ne discutevamo con Tony Damascelli. Ma cosa rappresenta Bonucci per il Milan? È una squadra nuova per 10 undicesimi. L'undicesimo è Donnarumma. Mi sembra che il gioco sia fatto. Quindi Bonucci porta leadership, è giusto che indossi la fascia di capitano, secondo me è una grande idea. Biglia è un leader ed è un leader tecnico, il Milan ha tutto quello che serviva, manca l'unica pedina che arriverà ed è Kalinic. Secondo me, al di là del nome, non fare quella faccia lì, Edoardo Lavezzari, tifoso del Milan, secondo me è il giocatore che ha le caratteristiche giuste, al di là del insomma, puoi sognare gente più forte, però il giocatore che ha le caratteristiche giuste è il tassello che completa il mosaico. Zitti? Parla nessuno. Ugo Conti. Caduto. È entrato all'esse lunga. Giovanni, che ne dici? Che sì, Kalinic c'è il tassello che completa tutto. Poi capiremo come gioca il prossimo Milan, perché io sono abbastanza convinto che di punta ne servirà solo una alla fine, perché giocherà con il 3-5-2 e Çalhanoğlu deve giocare. No, perché l'hai preso d'accordo Gio, però lasciando stare Bacca. Ugo, eccomi. Ti chiedo ancora questo, manca un tassello, sarà Kalinic, una punta, sarà Kalinic, secondo me quello giusto per caratteristiche. Poi puoi sognare Aubameyang, gente più forte, però le caratteristiche giuste sono quelle di Kalinic. Secondo me anche con i rapporti che c'erano con la vecchia proprietà, non escluso che il colpo, e sarebbe meraviglioso, sia Belotti. E mi piacerebbe a chiunque, immagino, non è Belotti. Costa un centenario. Se arriva Belotti, darei la faccia di capitano a lui. No, io resto con Bonucci, comunque costa un centenario. No, ma te l'ho detto anch'io, Bonucci, senza sapere la tua opinione. No, sarebbe meraviglioso. No, danno la fascia a Bonucci oggi, gliela tolgono fra due settimane, così andiamo avanti tutta l'estate. Caso Bonucci. Ugo, ti aspetto, Arrivo. La prossima volta qui. Fatemi un invito ufficiale. Io non sono uno che viene a bussare mentre lavorate. No, Ugo, ti mando una lettera formale da Radio 24, il Sole 24 Ore, con il sigillo del notaio. Va bene, cari. Dai. Ciao, grande. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio, traffico. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Un giocatore come Anderson che spera di migliorare e di giocare in una squadra più vincente, anche se l'anno scorso Lazio ha fatto bene, vede insomma mandare via giocatori importanti e tanti altri, da come sembra, che vogliono andare via, non vogliono rinnovare, e sono quelli magari più importanti, quelli che hanno permesso alla Lazio, insieme agli altri sicuramente, e però hanno fatto la differenza finché la Lazio potesse conseguire i risultati che ha conseguito. No, ma io la domanda ti volevo fare, a te è mai capitato? Così, potrebbe essere nervoso per altri motivi. Paolo, è mai capitato? Una volta a settimana capitava, anche nelle squadre dove abbiamo vinto, con la Juve, con il Milan, una volta a settimana, ma era la normalità. Allora, questo è il parere di Paolino Di Canio sulla lite avvenuta ieri tra Ed e Felipe Anderson, contatto botta in campo. Felipe Anderson che è andato a mostrare l'abbruccio ferito. Il labbruccio ferito su Instagram. Sono cose che capitano, anche perché non c'è la condizione, quindi allora, capita che un intervento arrivi in ritardo, sia più duro di quello che debba essere. Perfetto, capita, è una cosa normale, la si risolve tra uomini, ci si prende due cazzotti e via, ma c'è bisogno di far vedere il labbruccio ferito su Instagram. Vabbè, insomma, si vergogna, ecco, no, ormai si socializza tutto. Ma si vergogna i loro signori, che uomini sono. Tutti convocati, ti leggo altri due messaggi. Che c'è uomini. Alberto che c'è lassù con l'Inter, che non sta facendo nessun colpo. Questa sera parla Sabatini, vedremo, cominceremo a capire qualcosa. E poi Matt che dice che da Juventino un po' gli spiace, però è stata una grande operazione economica in stile Marotta. Io non lo so, vediamo, perché poi le grandi operazioni nascono e muoiono col giudizio del campo, e se tu hai rinforzato una diretta concorrente magari alla fine non hai fatto una genialata. Beh, però diretta vediamo fino a che punto. Io dico che in questo momento il Milan raggiunge il Napoli, che ovviamente è su diametralmente. Napoli ha due anni di vantaggio. Bravo, non può essere raggiunto da un mercato. Sto parlando di valore tecnico. Poi è chiaro che su due situazioni diametralmente opposte, da un lato c'è la conoscenza perfetta, sono due situazioni veramente all'opposto. La conoscenza perfetta, dall'altro una squadra totalmente nuova. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno, sì, salve. Grazie per la convocazione. A lei. Ma io direi Juventino Doc, naturalmente, ma io non la vedo scandaloso. Io me l'aspettavo che lui andasse via, ma 30 anni, 40 milioni, tutti i casini che ha fatto l'ultimo anno. Poi sinceramente io vedo tutte le partite, ma lui fa tanti errori durante una partita, è un buon giocatore, come dice Damascelli, è un giocatore normale. Marcello, fai parte della fenomenologia numero uno. Cioè i tifosi della Juve che improvvisamente si sono accorti che Bonucci era scarso. Scusa, hai detto te che era lui era fondamentale, ma Bonucci faceva tanti errori, ragazzi, eh? Ragazzi, l'anno scorso lo voleva il Manchester, lo volevano tutti. Era il prototipo del nuovo difensore, capace coi piedi di fare il regista. Adesso io capisco tutto, non era Beckenbauer, però Marcello, 30 milioni 30 anni, sì. Secondo me è un ottimo affare. Dopo lo vedremo. Lo vedremo nel Milan. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ciao Marcello. A te, secondo me, Bonucci è un grandissimo difensore. Poi vedete come volete. Mario, buongiorno. Buongiorno, hola dottor Genta. Tutto bene? Hola. La sento parlare ogni tanto in sudamericano. Che pasa, no? Ma io e Pardo parliamo ogni tanto, no. Divaghiamo in lingue straniere. Dica. Benissimo, intanto vi ringrazio sempre, come ogni volta che vi sento, della vostra cortese educazione. Allora, io sono tifoso juventino e sinceramente dispiace, per carità, come qualsiasi altra cosa, ritengo Bonucci un ottimo giocatore. Adesso non bisogna sempre guardare gli errori, quando uno va via si guardano solo gli errori, ha fatto anche delle belle cose, perciò niente drammi, ma per un piccolo rebus magari lanciato da Damascelli, Bonucci è andato via, Nastasic doveva andare alla Fiorentina, è stato tolto dal mercato dallo Schalke, e Matic, che era incedibile, stranamente da stamattina è sul mercato. Non è che uno dei due già seguiti dalla Juventus prima o poi ci capiti? Beh, però se Nastasic è quello che deve far dimenticare Bonucci, secondo me non siamo sullo stesso livello. Su Matic vediamo, perché Matic è un giocatore che è piaciuto, piace, piaceva anche l'anno scorso, e vediamo se arriva alla Juventus. Vediamo, però la Juventus a questo punto deve rinforzarsi praticamente in tutti e quattro i reparti, perché deve fare un paio di colpi sicuri in difesa, perché c'è sempre l'esterno che deve sostituire Dani Alves. Manca sempre un grande centrocampista, e questo lo sanno dalla fine della scorsa stagione. Probabilmente manca ancora un esterno d'attacco. Quindi cominciano a essere tante le cose che la Juve deve fare, ma le farà certamente. Quello che contesto io oggi è che in 24 ore Bonucci sia diventato uno che in fondo fare a meno. In fondo era un brocco. Enrico, dai che riusciamo a farlo. Enrico. In fondo era un brocco. Buongiorno. Dica. Allora, sono un tifoso interista. Premesso che ho grande stima di Sabatini e ritengo Spalletti un grandissimo, valore aggiunto per l'Inter. Sono d'accordo detto con lei. Questo, trovo inconcepibile, fuori dal mondo, che l'Inter si sia lasciato sfuggire Bonucci. È una cosa per me incomprensibile, non trovo ragione. Non so voi cosa ne pensiate. No, io sono abbastanza d'accordo, perché una delle priorità dell'Inter era prendere un centrale difensivo forte. E insomma, per quello che è stato pagato Skriniar, non è che ti mancasse molto altro per arrivare a Bonucci e avevi il leader che ti serviva. Poi abbiamo sentito Ausilio dire che all'Inter non si possono prendere giocatori che guadagnino 2-3 volte lo stipendio dei più forti che ci sono in questo momento, e allora fai un altro tipo di riflessioni. Attenzione, c'è un altro discorso da fare. Mentre il Milan ha ancora per qualche mese le mani libere sul fair play finanziario, l'Inter no, e quindi non è detto che questa operazione l'Inter complessivamente potesse farla, non tanto per i 40 milioni quanto per lo stipendio che il Milan riconoscerà a Bonucci, per tutto quello che avrebbe significato dentro lo spogliatoio dell'Inter. Però dal punto di vista tecnico non esiste una spiegazione. Marco da Macerata. Sì, la facciamo, dai, 30 secondi. Dai, Marco. Vai. Sì, una cosa velocissima al volo. Io sono perfettamente d'accordo con Damascelli sul fatto che Bonucci sia un buon giocatore, ma non assolutamente un campione. Ma la domanda è questa: cosa succederà al Milan quando scadrà il prestito di Elliot? Vi ascolto per radio, grazie. Te lo dico in 10 secondi. No, te lo dico in 10 secondi. Che Yongon Lee farà di tutto per restituirlo. Se non dovesse essere, e Elio dovesse decidere che vuole escutere tutte le garanzie, rimetterà sul mercato a un prezzo più basso un club che non è una scatola vuota, ma avrà una rosa di un certo livello. Io credo che i tifosi del Milan debbano stare sereni. 10 secondi scaduti, GR, e poi comincia il viaggio tra i motori Racing Team. Siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. La prima guerra mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta, ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Racing Team. Beh ragazzi, Bonucci o non Bonucci, Aru o non Aru, il momento per di Racing Team è sacro. Al venerdì a quest'ora. Giovanni Capuano in studio con me, professor Leo Turrini, buongiorno. Anche se buongiorno, in realtà, anche buongiorno, se, scusate, mi sentite bene? Sì, anche se in realtà il professor Leo Turrini in coda sulla Pero Cormano, voglio chiedere un giudizio su Aru, voglio chiedere, perché è un professore di ciclismo, sì, ha scritto sacri testi. Una cosa che mi ha lasciato sbalordito, siamo tutti in coda come sempre qui sulla Pero Cormano, e ho visto in coda sulla Pero Cormano facendo l'autostop, no, anche Kimi Raikkonen, che mi ha chiesto: ma il Milan compra Bonucci, perché non prende anche me? Ormai il Milan compra tutti, il Milan compra tutti. E allora voglio dire che Marchionne, permettendo, ci sarebbe amici rossoneri anche il mio amichetto, il santo bevitore, penso. Kimi Raikkonen, eccomi qui, Suaru, cosa posso dire? Aspetta, aspetta, sai cos'è l'ultimo atto che ha fatto Bonucci del giocatore della Juventus, Leo? No, dimmi. Ha restituito l'auto aziendale, ti ricorda qualcuno? Era una multipla, allora io ve lo dico, perché Bonucci lascia la Juventus? Voi avete il coraggio di dirlo, perché siete Radio 24, avete legami, è vero, quei ma non abbiamo legami con nessuno, siamo dei cani sciolti, Montezemolo, Montezemolo, perché lasciò la Ferrari da presidente? Perché gli dissero: come auto di rappresentanza si passa per volontà di Marchionne una multipla metano. E allora lui disse: ma io c'ho i tre Italo, ma scusate, no? E si congedò rapidamente, finendo poi anche sui voli all'Italia, non voglio aprire pagine tristi, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi meraviglia che Bonucci se ne sia andato, perché se gli avevano dato il pandone, il è pandone. Chiaro che sulla Pero Cormano in coda con me Bonucci sarebbe rimasto ore e ore. Come ha scritto Genegno, che avrei letto sulla Gazzetta dello Sport, ha svuotato l'armadietto e ci ha trovato dentro Dybala. C'era Dybala. Ma sapete, no, poi la vera parlami di Aru, professore. Non parlo di Aru. No, adesso parla di Aru. Volevo dire una cosa ultima, perché voi non avete avuto il coraggio. Parli tu. Perché tra Bonucci e la Juve è finita così? Ancora Bonucci. Perché quando si era nell'intervallo di Juventus Real Madrid a Cardiff 1-1, no? È vero che Bonucci ha detto a Barzagli, Khedira e Dybala: cercate un quarto per fare una scopetta, provate a darci una mano. Questo è il motivo, capito? Allora, è andata così. Noi ci dissociamo. Allora, dissociatemi, perché poi vi chiamo Andrea Agnelli, fatemi dissociare. Allora, ultima domanda formale. Per favore, signor dottor professor Leo Turrini, mi dice una cosa, lei che ha scritto sacri testi di ciclismo su Fabio Aru e su questo tour. Guarda, allora, io mi sto emozionando tantissimo, mi capita di parlarne con Riccardo Magrini, che come tu sai è il Carlo Gento delle telecronache, no, sul ciclismo, il numero uno. Sì. Spero, perché mancano ancora tante salite, tanti chilometri, che questo ragazzo possa regalarci di nuovo un'emozione che aspettiamo dal giorno di Nibali e poi tornare indietro dalla grande impresa di Pantani. Devo dire che è una storia bellissima. E insomma, guarda, il tour c'è poco da fare. Io voglio molto bene al Giro d'Italia, eccetera. Ah, ma sì, il tour ha un fascino suo. Monsieur Tour de France. C'è poco da fare. E poi è molto bella, e voglio dire, la storia di questo ragazzo che viene dalla Sardegna, che come Nibali veniva dalla Sicilia, che ha avuto questo infortunio, il Giro partiva dalla Sardegna, lui è stato costretto a rinunciare, è stato anche criticato per aver annunciato in anticipo che non ce la faceva, adesso è lì in Francia, forse, ecco, questo mi preoccupa un po', ma tu sei l'esperto, non mi pare abbia una squadra. No, ma tanto c'è la Sky che fa tutto, quindi a lui basta prendere la maniglia del treno. No, un'ultima cosa, Leo, poi andiamo sulla Formula 1, perché non è il caso. Non parliamo di Formula 1. Prende larghissima per non parlare. Ne parliamo, e come, anche perché c'è il tuo amico Bottas in testa dopo le prime prove. Ma comunque, secondo te, quanti, tu che intendi di tempi, quanto tempo serve, quanto vantaggio serve a Fabio Aru per stare tranquillo nella cronometro? Ma dunque, senti, allora, ci sono, abbiamo detto prima, ancora parecchie montagne. Aru a cronometro l'abbiamo visto anche nel prologo, non è un missile, secondo me è meno forte, per dire, di Nibali, Sì, certo. Io penso che lui sulle Alpi, o forse già oggi, non so, con questo percorso che hanno 100 km, deve ma attaccare. Molto selettivo, io mi sentirei tranquillo se lui arrivasse al cronometro finale un paio di minuti di vantaggio su Froome e anche su questo Bardet, che è un bel corridore, l'ho visto anche ieri, sì. Dai, noi diciamo l'Italia, cioè, i francesi non vincono un tour da Bernardino, eh? Sì, sì. Dal 1985. Possono anche andare avanti, eh? Non possono è che ci offendiamo. No, ma io guarda, conto molto su Fastone, come si chiama? Mirabella. Mirabella. Anche Bardet per il Milan. Ecco. Senti, che lo portano via il ritiro. Io prenderei il Bottas. Il Milan compra tutti, tanto mi meraviglio. Io prenderei il Bottas. Perché il Milan non compra? Basta con sto Milan, Bottas. Bottas. E cosa devo fare? Io so che tu vuoi, lo so che stai divagando, no, Carlo, perché vuoi non bene. Vuoi parlare di Bottas. Io ho cominciato a svuotare i cassetti. È perché purtroppo sono un uomo di parola. Io ho detto a inizio stagione se Bottas vince il mondiale con la Mercedes, io faccio come Rosberg, mi ritiro. Con la differenza che Rosberg si è ritirato da campione del mondo e con un pacco di milioni di euro sul conto in banca, e per me non sarà così. Io sono basito. Tra l'altro, guarda, c'è questa roba che non c'entra nulla con la pista, però fanno questa grande parata della Formula 1 nel cuore di Londra mercoledì. Sì. Partecipano tutti i piloti, tutti, e c'è uno che non si fa vedere. E chi è? Dimmelo tu, il tamponato di Baku, il ruotato di Baku, Lewis Hamilton. Allora uno si fa qualche domanda, dice, magari è vero che aveva altri impegni, cioè lui è innamorato di questo cane che ha rosso, eccetera, doveva portarlo al veterinario, non lo so, però sembra anche, come dire, un segnale, come ha segnalato proprio la stampa britannica, quasi di fastidio nei confronti del suo team, eh? Come dire, beh, io non sono più tanto felice con voi e quindi a questa cosa promozionale non mi faccio vedere, non lo so, è strano. Io però, per non saperne leggere né scrivere, come i dipendenti di Lehman Brothers a suo tempo sto riempendo gli scatoloni, quindi vi anticipo che quando Bottas vince il mondiale non mi sentirete più a Radio 24, perché io mi ritirerò con Rai, con il Milan. Abbiamo tempo fino a novembre, voglio andare al Milan anch'io, ve lo dico, perché qui il Milan compra tutti, io non capisco. Senti, io sono sul mercato oggi, eccomi qui, poi andiamo anche da, ovviamente, da Roberto Ungaro per il mercato piloti, perché interessa, vabbè, interessa Ungaro, molto il destino di Benetton. Ungaro non c'è ancora, però c'è. Io oggi vi propongo un confronto tra professore al massimo livello, due al prezzo di uno, Leo Turrini e Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio, grazie. Allora, buongiorno. Giorgio, per quanto mi riguarda, non è un professore, è il rettore. Il somaro, No. Io basta, Giorgio, fammi dire una cosa, poi ti scelgo la parola. Una volta eravamo giovani, sia io che Giorgio, lui si tiene molto meglio di me, c'era ancora Alesi alla Ferrari e stavamo guardando le qualifiche di non so quale Gran Premio. Alesi fece un tempone come ogni tanto gli capitava e Giorgio si girò verso di me e mi disse: questo è il raglio dell'asinello di Avignone, ti ricordi Giorgio? Oh, una cosa meravigliosa. Senti, io ce l'ho nel cuore, però. Sì, Giorgio, c'è Turrini che avrei sentito, ha detto: se Bottas vince il mondiale, io sto svuotando i cassetti, mi ritiro. Ma infatti, non c'è il rischio, secondo me. Lo chiama il pilota che pagano a voucher oppure a buoni pasto della mensa. Ma insomma, questo qui è uno che sta facendo la sua parte, por sacramento. Cioè uno che va rispettato per quello che fa, ma non è un pilota che vincerà il mondiale per nessuna ragione, secondo me non può essere. Farà il suo quando può, ha fatto il suo quando poteva e doveva farlo, per il resto è uno che farà dal secondo in giù. Ma non può essere perché non ne ha le capacità, o non può essere perché dopo che l'ha fatto Rosberg l'anno scorso alla Mercedes hanno imparato la lezione? Vabbè, cioè no, adesso, no, senza girarci troppo intorno. Perché... No, perché c'è una gerarchia molto evidente, persino giustificata, e quindi lui farà quello che può fare un secondo pilota dentro un campionato come questo. Poi quando Hamilton la smetterà di cazzeggiare, comunque è chiaramente più veloce di Bottas, e il duello sarà tra i due ben noti che si prendono a ruotata a gioco fermo. Questo è, e lui ha fatto anche adesso quello, facendo il suo, ha fatto quello che doveva fare per la squadra. Esatto. Cioè, non è che si è messo a fare il matto davanti al suo compagno, ha fatto un lavoro necessario quando quell'altro era fuori discussione. E io condivido perché sono favorevolissimo ai giochi di squadra, a differenza di Leo Turrini che lo è meno. No, io sui giochi di squadra, per carità, eravamo con Giorgio quando c'era Todi in Ferrari, sappiamo bene come funzionano certe cose. Dico che talune situazioni, tipo appunto la corsa di Baku, quella famigerata, dove Hamilton via radio chiede ai suoi di fare rallentare Bottas, così Vettel deve andare più piano e lui gli arriva sotto, lì siamo anche oltre. Poi non l'hanno fatto, io lo riconosco questo Mercedes, tant'è vero che Bottas sul traguardo bruciò il ragazzino della Williams e arrivò secondo. Però ecco, lì andiamo un po' oltre. Un conto è dire ci sono punti che valgono, eccetera, è un conto è usare sistematicamente un presunto maggiordomo finlandese esclusivamente allo scopo di danneggiare l'avversario nella corsa al titolo. Ecco, quel team radio lì di Hamilton, secondo me, è la cosa più brutta che abbiamo visto finora in una stagione che per tanti altri motivi è bellissima. Mentre saluto anche Roberto Ungaro, chiedo un ultimo parere a Giorgio Terruzzi. Sei d'accordo, Giorgio? No, mi viene da dire che è una sfida tra due antipatici. Mi dispiace dirlo. Cioè, sia Hamilton sia Vettel sembrano due troppo capricciosi, troppo lontani dalla pancia e dal cuore della gente che guarda le corse. Mi sembrano due un po' viziati, due che non hanno percezione della passione che c'è attorno a questa sfida, che è più pompata di quanto sia, sì, in realtà. Sì, nel senso che mi sembrano, l'unico contatto è avvenuto a voce ferme, due che si segnalano soprattutto per capricci e capriccetti vecchi, un po' deludenti secondo me per essere due protagonisti di un mondiale. Tutto questo, scusate, come le prendiamo il secondo e passa che oggi le Ferrari, è il venerdì, non conta nulla, però oggi la Ferrari ha preso un secondo e passa dalle due Mercedes, perché viene il sospetto che magari c'era già nelle ultime due gare che la Mercedes sia tornata più forte. No, aspetta, attacco un'ultima considerazione, così Giorgio Taruzzi poi lo salutiamo. La Mercedes si è giocata il bonus dell'upgrade, no? La Ferrari ancora non l'ha fatto. Se si è giocata il bonus dell'upgrade e la Ferrari no, fin qui le risultanze sono positive. Bisogna avere anche la benza per fare l'upgrade, bisogna vedere. La Mercedes li sa fare, la Ferrari non lo so, bisogna vedere se è arrivata sta macchina o no. Fino adesso ha dato solo segnali positivi, bisogna vedere com'è il grafico di crescita di queste due macchine. Noi si sapeva dall'inizio che la Mercedes aveva un percorso più lungo anche a causa del cambio di passo, di una serie di regolazioni che avrebbero dovuto aspettare un po'. Adesso vediamo, loro lo sanno fare il cambio di passo però. Grazie Giorgio. Grazie a voi. Ti abbraccio, professore, anzi rettore. Turrini. C'è un Ungaro che tra poco dice tutto su. L'unica cosa che io vorrei sapere da Ungaro, perché qui ormai non si vive più, no? Ma scusate, ciao Roberto, caro Ungaro. Allora, Belen è tornata con Iannone o no? Perché io ti voglio bene, Ungaro, capisco che tu dici, ma quando io parlo il futuro di Morbidelli, tutto va benissimo, io sono felicissimo, ti ascolto e ti adoro. Quando dici, ma la ciclistica, la Yamaha, Valentino, tu sei un fenomeno, Ungaro, e io sono il tuo gregario, sono il tuo Bottas, il tuo maggiordomo. Però l'unica notizia che devi capirci tutti quanti è, allora, come siamo messi? Si è ricomposta la frattura. Posso dire una cosa? Perché qui sono appena Cormano, la gente in coda mi chiede solo questo, mi dice ma perché Ungaro non risponde mai a questa domanda? Posso dire una cosa preliminare? Posso dire una cosa preliminare? Prima mi è arrivato un messaggio, guardiamo sulla webcam quando arriva Belen, la stiamo aspettando. Dica ecco. Roberto, dica Roberto. Leo, tu vuoi farmi fare il signorini della situazione? Io mi impegno a informarmi di tecnica e tu mi chiedi quella roba lì. Sì, è amore, questa è la conferma, dai. Ma il problema grosso di Iannone è dove andare. Perché è vero che ha un contratto ancora per tutto il 2018, però sia lui e, diciamolo, stretto fra i denti, anche Brivio se ne vuole liberare, tutte e due. Questo è il rumors che si dice. se ne vogliono tutti andare. Il problema è che non ci sono stelle, non ci sono più moto, perché tutti sono sotto contratto fino all'anno prossimo. L'unica moto libera è Aprilia. Aprilia ha cercato Iannone offrendogli tanti soldi e Petrucci ha firmato per Yamaha, come sappiamo, ma Aprilia vuole un pilota italiano sulla sua moto italiana, e quindi Iannone l'unica moto che ha disponibile è quella lì. È anche vero che Spargarò dimostra un potenziale di Aprilia che in realtà non è quello, cioè Espargarò ci mette del suo. L'Aprilia oggi il livello non è quello che vediamo, è Espargarò che fa più del dovuto. Però non ci sono moto libere. L'ultima chicca di mercato è che, vabbè, Miller sta facendo l'8 ore, però è già al posto di Redding in Pramac, e quindi ci sarà uno scambio tra i due piloti, aspetta Honda dirlo. E Lowe's, che viene basta con Aprilia, ha sbottato, non riceve aggiornamenti, questo non è stato gradito dall'Aprilia. Ma per la MotoGP è tempo di vacanza, e qui ci vuole Signorini, Leo. E allora ti dico che chi è in barca fa fatica ad allenarsi, Ungaro, e a tenere l'allenamento. Non mi sento qua. Ungaro, tu escludi, dimmi, la possibilità che Iannone vada al Milan? Perché il Milan sta comprando tutti, è interessato anche a Kimi Raikkonen, siccome dici che non ha molte possibilità, perché Iannone non va al Milan anche lui? Sai che se glielo dicesse Belen lui ci andrebbe anche, siamo veramente ai minimi termini. Comunque ti dicevo, tempo di vacanza, chi imbarca fatica a tenere l'allenamento, perché un mese di stop è dura, ragazzi, per i piloti, eh? Comunque sono tutti via, vale a Ibiza a fare la vita che piace a lui, rientra al 22-23 al ranch, Dovizioso è in giro che gioca con lo ski jet, Orghi ha fatto il professionale, cosa ha fatto? Ha chiamato tutti gli sponsor in barca, ha fatto quei meeting, come i meeting commerciali, sai, quando si fanno quegli incontri lì, e basta. Anche Marquez è in Spagna, un po' su dalla barca, giù dalla barca. Il problema per i piloti è che questo mese, ragazzi, è lungo, tenere gli addominali, il fiato e tenere l'allenamento, eh. Chi è su terra ce la fa di più. Io questa frase sugli addominali di Ungaro potrei dire una cosa, ma mi trattengo. No, adesso non ti trattengo. No, adesso la dici. No, adesso la dici. No, non la dico perché ho delle figlie giovani, ma Ungaro è un provocatore. Adesso la dici. Il problema dei piloti di moto è mantenere gli addominali. Ma per l'amor di Dio, ma mandiamolo al Milan questo Iannone. Ma per carità, ma cosa devo sentire alla mia veneranda età? Io che andavo a cena con Tarquinio Provini, Mike Elwood e anche, devo dire, Masetti, eccetera, vi parlo degli anni 50, così. Guarda, quella è un'altra epoca, è l'epoca dello Spinelli, dell'Angelinetto. Oggi non sono più così. Ce n'è solo uno che fa eccezione anche in quello, ed è lui. È lui, è il dottore, è il biondino, non c'è niente a fare, a lui piace divertirsi, lo sappiamo, però poi ritorna nei ranghi e basta, quindi anche se si vede il Ibiza non succede niente. E comunque, come sappiamo, anche Agostini il problema di tenere gli addominali non ce l'aveva, perché questo è quello che voleva dire Leo Torrini, e non ha avuto il coraggio di dire. Era un allenamento passivo, li tenere allenati in modo passivo. Come fanno gli altri ragazzi nel modo mondiale? Adesso chiameremo il professor Pincolini e ci faremo spiegare la tecnica. Chiamiamo Cruciani, facciamo prima. Allora, abbiamo giusto tempo e spazio per Salvatore, ascoltatore. Buongiorno, dica. Buongiorno. Grazie a voi perché mi allietate il pomeriggio nonostante il gran caldo. Fantastico. Un saluto affettuosissimo a Leo Turri. Veloce. Volevo intervenire sul discorso del dualismo Hamilton-Vettel, ma non possiamo stupirci. Ha esattamente il pari con i dualismi Marquez-Lorenzo. Questa è gente che non ha fame, è arrivata lì, non lo sa nemmeno come. Non c'è paragone. Se io penso a quando ero ragazzo, quali erano i piloti di Formula 1, non vorrei fare la lista perché rischierei di dimenticarne qualcuno, ma gente del calibro di Andretti, Merzario, Carlos Reus, Alan Jones, non vorrei andare ancora indietro. È gente che fondamentalmente non ha etica, non ha rispetto, non ha fame, e riflettono esattamente le generazioni di oggi. Guardi Salvatore, per me è un po' demagogico come intervento, ma risponde Leo Turrini in 30 secondi. No, è chiaro che le epoche sono tutte diverse. A me viene in mente una sera a cena, questa volta davvero, con Clay Regazzoni e Arturo Merzario, forse ve l'ho già raccontato. Era l'epoca d'oro di Schumi in Ferrari, un mondiale dopo l'altro, e io chiesi a loro, se avesse corso i vostri tempi con Lauda, Peterson, Andretti, Schumi dove si sarebbe piazzato? E Regazzoni, devo dire imperturbabile, disse decimo. Merzario si innervosì tantissimo, scosse il cappello da cowboy e disse: ma no Clay, ti sbagli, non sarebbe arrivato nei 20. Quindi vabbè, parliamo di Sciuve, ma per dirvi che ognuno giustamente difende, ha la sua visione, è chiaro, difende, difende i tempi suoi, legata al tempo, hai capito? Io sono l'unico che fa eccezione perché sono cresciuto con Nunzio Filogamo alla radio, ma penso che gente sia più brava, questo voglio dire, mi sono adattato ai tempi. Ciao ragazzi, ciao, dobbiamo chiudere, ciao Roberto ciao. Ungaro, ciao Roberto Ungaro, Leo Turrini, ci sentiamo lunedì. Ciao a Giorgio De Luca, il nostro autore, Edoardo Lavezzari che va in vacanza, Gianmarco Ferronato. Io vado in vacanza ma 5 giorni, fino alla settimana prossima, cioè lunedì l'altro. E io vi aspetto invece lunedì alle 14. In splendide mani quelle di Giovanni Capuano. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.